Benvenuti a tutti, puntata numero 30 di NBA Week, ultima puntata riguardante la stagione 2016-2017 su Radio Big World. È vero, ancora ci sono gli award stagionali che devono essere assegnati e poi c'è il draft ed il mercato estivo. Ci sarebbe tanto ancora da raccontare, seppur periodico, seppur non necessariamente in modo settimanale. Tuttavia gli impegni personali sono tanti e la fine della stagione può aiutare il sottoscritto a concentrarsi su altri piccoli progetti o magari a riposarsi qualche ora ogni tanto. Chissà, in ogni caso parleremo in conclusione di puntata del futuro di NBA Week, tirando inevitabilmente le somme di quella che è stata comunque un'avventura singolare quanto soddisfacente. Intanto abbiamo il nome della squadra campione NBA per questa stagione. Si tratta dei Golden State Warriors, che hanno sconfitto per 4-1 i Cleveland Cavaliers, che erano rientrati a sorpresa nella serie in gara 4 quando quasi tutto il mondo prevedeva uno sweep. In realtà i Warriors campioni erano ampiamente prevedibili fin dall'inizio di stagione, anzi fin da quando Kevin Durant ha deciso di lasciare OKC approdando nella baia. Stendiamo un velo pietoso sul mio osceno e fallimentare pronostico pre-finale, proprio sottolineando quanto Durant sia stato l'uomo in più rispetto all'anno scorso, sempre decisivo in questa serie, sempre oltre i 30 punti in ogni gara, con l'apice dei 39 nella notte decisiva. Sto registrando ed è martedì pomeriggio, quindi sono reduce praticamente da una nottata insonne, perdonate ogni tipo di probabile errore. A proposito di quel pronostico, se avete ascoltato quella famigerata puntata, avevo analizzato reparto per reparto la doppia sfida tra le due squadre, dando le mie valutazioni e di conseguenza emettendo la mia sentenza, che in soldoni era Cleveland Cavaliers vincenti in 7 partite. Proviamo quindi a rileggere brevemente le sfide reparto per reparto, alla luce del già detto, ma in relazione a ciò che effettivamente è accaduto in questa serie finale. Reparto guardie, netto vantaggio anche previsto per Golden State. Stephen Curry ha giocato una serie splendida, decisivo in tutte le partite offensivamente, molto playmaker smazzando tanti assist e passaggi di qualità, fondamentale anche al rimbalzo dove ha stupito regalando alcuni extra possessi in chiave finale decisivi ai suoi. Difensivamente importante, non quanto però il miglior difensore della serie. Un Klay Thompson che ha limitato a tratti Kyrie Irving, che ha vissuto momenti offensivi esaltanti in seguito ad una pessima prima prova offensiva in gara 1 e una gara 5 da specialista, ma che non ha mai lasciato un tiro incontestato agli avversari. Decisivo ed invisibile quindi, come c'era bisogno che fosse. Dall'altra parte Irving si è ritrovato da gara 3 a Cleveland e lo stesso è valso per Jenna Smith, in crescita fino a raggiungere l'apice dei 25 punti in gara 5, ma non c'era paragone in sede di presentazione tra i due backcourt e paragone non c'è in effetti stato durante la serie finale. Reparto ali, avevo dato un vantaggio a Cleveland, errore fatale. Un LeBron strepitoso che diviene anche il primo giocatore della storia della Lega a concludere con una tripla doppia di media in una finale, possiamo anche definirlo impattante con l'MVP assoluto della serie Kevin Durant, anche se quest'ultimo, essendo meritatamente non stato nominato il migliore in campo della serie, merita una menzione in più. Sbaglia poco al tiro di abitudine, ha sbagliato praticamente mai quando contava in questa serie. I suoi ultimi 3 minuti di gara 3 sono stati quelli che hanno regalato di fatto il titolo agli Warriors. Kevin Love invece, al solito, a me personalmente ha deluso molto. Ok il suo gioco sporco, ok i rimbalzi, ok la presenza offensiva che a volte toglie le castagne dal fuoco per i suoi, in realtà però non è assolutamente una sicurezza in attacco dove ha esplosività zero. Se aggiungete che per gran parte della serie ha tirato pure malino da dietro l'arco, è naturale capire che in parallelo ha funzionato meglio Draymond Green. Ora, intendiamoci, Draymond Green non ha giocato sta grandissima serie finale, ha tirato malino dal campo, mettendo sempre però la consueta grinta su tutti i palloni, riuscendo in definitiva a controllare molto il suo impeto, pur rischiando un'espulsione fantasma che poi non si è verificata ma che di fatto era probabilmente meritata in gara 4. Ha giocato quindi da Draymond Green e si tratta di un quarto fondamentale di un quintetto determinante per la squadra che si è laureata come la più forte del mondo. Quindi reparto ali in definitiva vinto anche questo alla fine da Golden State. Per quanto riguarda i centri lasciamo perdere. Tristan Thompson ha giocato dal giocatore che ci saremmo aspettati solo gara 5. Paciulli è stato invece a tratti imbarazzante e Giavalone McGee ha dovuto convivere con problemi fisici. Preferito e preferibile sempre il quintetto piccolo con Iguodala per gli Warriors, con conseguente accomodamento dall'altra parte, dovuto anche dal fatto che Tristan è stato onestamente scandaloso nelle prime due gare. Quindi sui centri lasciamo perdere, non sono valutabili a livello di impatto nella serie. le panchine. Ecco la nota dolente vera per Cleveland. Il supporting cast che tanto avevo lodato come ben costruito attorno a James Irving durante il mercato di riparazione invernale ha fatto totalmente cilecca. Impressionantemente brutta la serie giocata da Kyle Korver e da Deron Williams. Osceno e dannoso praticamente sempre Imam Shumpert, e non solo per i suoi consueti disastri a livello di scelte offensive. Poco impiegato, giustamente per quello che ha fatto vedere in campo, Channing Frye, troppo vecchio seppur lottatore, il caro Richard Jefferson. Dall'altra parte basterebbe citare le prestazioni stellari e fondamentali di Andre Iguodala, la sua stoppata decisiva sulla tripla del potenziale pareggio di James in gara 3, i 20 punti nella decisiva gara 5. Ma al solito sono stati importanti i canestri di Livingston e West, stravinto quindi il confronto dagli Warriors. Forse la panchina nell'economia finale della serie è stata decisiva. Nelle analisi delle sfide delle Finals eravamo rimasti sul 3-0 per Golden State, dopo l'incredibile finale di Kevin Durant in gara 3 alla Quick Loans Arena e la stoppata di Iguodala su LeBron nel disperato tentativo di impattare. Come forse avrete notato, non ho amato molto dar voce alle polemiche in questa stagione di NBA Week, in particolare a quelle polemiche all'italiana, che spesso si sentono fare a livello calcistico e che fanno onestamente senso a leggersi nelle discussioni tra utenti delle varie pagine Facebook nazionali più seguite rapportate al mondo della pallacanestro americana. Sorvoliamo di nuovo quindi rispetto ai cavalli di battaglia dei detrattori di LeBron James, a quelli degli haters di Kevin Durant o a quelli che portano mille statistiche per sostenere che Steph Curry è un giocatore sopravvalutato, o peggio ancora a quelli che parlano di arbitraggio a senso unico o comunque di arbitri venduti all'interno di una gara NBA. Una precisazione però la vorrei fare. Durante la vigilia di gara 4, tanto si è parlato del fatto che Golden State avrebbe appositamente perso la gara del potenziale sweep per vincere così il titolo in casa in gara 5. Tutto questo perché, secondo molti, con l'incasso casalingo avrebbero fatto tanti di quei soldoni quanti ne potevano servire per pagare lo stipendio di Curry il prossimo anno. Il risultato effettivamente è stato a vantaggio della squadra di casa e quindi dei Cavs in gara 4, ed ulteriormente Golden State ha poi vinto effettivamente la gara 5 in casa, festeggiando parecchio e meritatamente davanti al pubblico amico. Quello che però è destinato a distruggere ogni dietrologia rispetto al tipico retropensiero nazionale popolare sta in quanto segue. Sì, i Warriors hanno perso gara 4 a Cleveland, perdendo così la chance di scrivere un'ennesima pagina di storia NBA chiudendo i playoffs senza sconfitte, ma lo hanno fatto segnando 116 punti in trasferta, che non sono assolutamente pochi. Se nel primo quarto hanno segnato la bellezza di 33 punti, Cleveland ne ha messi incredibilmente 49. Quando chiudi il primo tempo realizzando 68 punti, ma gli altri ne fanno 86, sulla carta si può ovviamente puntare il dito sulla difesa, ma in pratica non si può dire che non ci stai provando. Semplicemente sono stati i Cavaliers che hanno giocato una partita irreale, chiudendo con 24 triple di squadra su 45 tentativi. LeBron ha chiuso in tripla doppia con 31 punti, Kyrie Irving con 40, Kevin Love con 23 punti e finalmente decisivo con 6 su 8 da 3 punti. Dopo il rocambolesco finale di gara 3, sembrava quasi che Cleveland volesse mostrare al mondo che era ben altra squadra rispetto a quanto mostrato fino ad allora, e che tutto sommato, quando in un gioco basato su due accentratori offensivi attorno ai quali è preferibile farsi trovare pronti sugli scarichi con tiri perimetrali, non entrano le triple, c'è poco da fare. E se in gara 1, tutto sommato per i Cavs, il problema principale sono state le palle perse piuttosto che il numero di canestri segnati da dietro l'arco, in gara 2 sono andati malissimo con un pessimo 8 su 29 da 3, replicato di fatto in gara 3, con 12 su 44 da dietro l'arco, quindi il 27% contro il 48% di una Golden State da 16 triple messe a segno totali. Inevitabile che le percentuali da dietro l'arco avrebbero potuto segnare profondamente la serie, considerando le già dette strutture di squadra dei Cavs e il numero eccellente di tiratori nel roster degli Warriors. In gara 5 invece all'Oracle Arena la differenza l'ha fatta l'aggressività difensiva. Anche qui non lo si vede sulla carta in una sfida conclusasi 129 a 120, ma lo si è visto ampiamente nel secondo periodo, dove i Warriors hanno scavato un vantaggio importante vincendolo 38 a 23. Il parzialone che annulla un più 8 iniziale per LeBron e compagni è figlio di un'aggressività sulla palla che porta i Cavaliers a perdere numerosi palloni dal palleggio, dal passaggio e sbagliando canestri apparentemente facili, sempre assolutamente contestati dagli Warriors. Dall'altra parte, visibile anche nel proseguo della gara, la reattività difensiva di Cleveland ha lasciato nettamente a desiderare, in una situazione dove per gli Warriors, battuto il primo uomo in penetrazione, si creava sempre uno scarico semplice per un uomo lasciato solo dall'aiuto in chiusura. Questo è indubbiamente merito dell'ottimo e continuo movimento senza palla nel sistema di gioco di Steve Kerr, ma contemporaneamente qualcosa a livello di aiuti ha funzionato parecchio male per Tyronn Lue e i suoi. Altro fattore di gara 5 è stato il contributo delle due panchine. La panchina di Cleveland ha prodotto solo 7 punti totali contro i 35 di quella di Golden State, ben sostenuta dai 20 punti del solo Andre Iguodala. I Warriors partono male a livello di percentuale di tiro a 3 punti, ma aumentano esponenzialmente durante il secondo quarto, quando scavano il loro parzialone che dopo, seppur con fatica, riusciranno a gestire fino in fondo. Per uno Steph Curry non indubbiamente inserato al tiro da 3, capace comunque di chiudere con 31 punti, 10 assist e 6 rimbalzi, ancora una volta a dimostrazione che il suo talento non è solo circoscritto alle sue capacità di tiro, ci sono uno strepitoso Durant e un decisivo Klay Thompson. Il primo chiude con 5 su 8 da 3 punti e più generalmente con un 14 su 20 totale dal campo, e non per nulla infatti è l'MVP della serie e della partita. Il secondo segna sempre quando conta, sia che si tratti di ricacciare indietro i tentativi di rientro di Cleveland, che di creare differenza nel parziale, che di chiudere la gara nel quarto periodo. 3 triple a segno per lui, decisive nei 3 distinti momenti in cui entrano dentro il canestro. Da un certo punto di vista sarebbe stato bellissimo a livello di spettacolo vedere i Cavaliers vincere questa gara 5 e provare ad impattare la serie due notti dopo in casa. Non fosse stato altro per la grande prestazione di un J.R. Smith da 7 su 8 da 3 punti e 9 su 11 dal campo totale per 25 punti finale. Tanto per non citare di nuovo il solito mostruoso LeBron James e l'ottimo Kyrie Irving, che però soffre tremendamente Klay Thompson e la sua difesa nel finale, complice anche forse un ginocchio dolorante per una volta presa durante la partita. Purtroppo però per Cleveland quest'anno nessun miracolo è avvenuto. Inevitabile, soprattutto se pensate all'apporto dato offensivamente e in materia di percentuali reali da un Kevin Durant inteso come uomo in più in una squadra che di fatto lo scorso anno aveva già vinto 73 partite in stagione regolare. Inutile pensare al futuro adesso, se non per dire che questi Warriors possono veramente creare una dinastia, perché sinceramente appaiono difficili da battere, a maggior ragione in una serie al meglio delle 7 partite. Cleveland dovrà ovviamente cambiare qualcosa l'anno prossimo. C'è chi dice che LeBron James sta già pensando di far di nuovo i bagagli verso un fine carriera sotto il sole losangelino, a prescindere che si tratti di sponda Clippers o di sponda Lakers. Altri dicono che i Cavaliers sarebbero pronti invece ad abbracciare DeMarcus Cousins già dal prossimo training camp. Ovviamente in attesa del draft e in conseguenza alla fine dei giochi, le previsioni di Fantabasket si sprecano. Lasciamole andare. Per me, e quindi per NBA Week, è stato comunque un privilegio immenso raccontarvi questa stagione, a prescindere da quanto scontato e prevedibile di fatto sia stato il risultato finale e l'edizione appena conclusasi dei playoffs. Come dissi molti mesi fa, nella puntata numero 0 tra l'altro, per me questa è stata un'autentica avventura, un salto nel buio nel fare qualcosa mai fatta prima. Non avevo infatti mai parlato di qualcosa ad un microfono, né tantomeno autoprodotto a livello di regia una trasmissione in podcast, e anche in questo lato, comunque come negli altri, c'è ancora tanto da migliorare, lo so benissimo e lo ammetto. Da autodidatta o dilettante allo sbaraglio che sono, se provo a riascoltarmi dalle prime puntate alle ultime, riconosco un miglioramento progressivo e costante in materia di costruzione della puntata e anche di dialettica. Ripeto, sono ancora a livello sotto zero, ma un'esperienza del genere è stata indubbiamente formativa, oltre che divertente. Da appassionato di NBA a partire dall'età di 6 anni, è stata la prima volta che seguivo analiticamente una stagione, intendo dire controllando quotidianamente risultati, statistiche, selezioni dei match e guardando le partite quando possibile, o almeno fin quando il corpo non cede alla stanchezza del giorno appena trascorso o al pensiero paranoico di quello a venire. L'ho fatto giocando a fare il giornalista sportivo, per responsabilità verso i tanti o i pochi che non sapevo se e quando mi avrebbero ascoltato. Non ho idea di quanti siete stati, perché le statistiche online sono fallaci sia su YouTube che su SoundCloud, considerando che vale uno soprattutto chi attiva un video ma non va oltre i 10 secondi di ascolto. Tuttavia i commenti e i feedback ricevuti, pochi o tanti che siano stati, mi hanno dato la garanzia che periodicamente il mio lavoro da qualcuno veniva seguito, un motivo in più quindi per onorare chiunque scegliesse di darmi fiducia provando a fare del mio meglio. e del mio meglio l'ho potuto fare in primis grazie a Radio Big World, che ha creduto nel sottoscritto, conoscendo la mia passione per l'NBA ed invitandomi a provare e a provarmi in sfida con un format radiofonico su un argomento simile. L'ho potuto fare grazie al grandissimo Belli 13, costante risorsa per chiunque voglia seguire la stagione NBA non potendosi permettere né l'abbonamento a Sky né quello NBA League Pass, che a differenza delle tante altre pagine alle quali ho chiesto se sarebbero mai state interessate ad ospitare il SoundCloud del mio podcast, praticamente a scatola chiusa mi ha dato fiducia proponendosi di rimbalzarmelo direttamente dal suo seguitissimo canale YouTube, decidendo anche, e quasi da subito, di impreziosirlo con immagini a guida della narrazione. Un grazie anche agli amici di NBA Revival Zone, che hanno sempre ricondiviso le mie puntate, e anche a quelli di Fanta Bar Sport, che mi hanno invitato a partecipare alla loro trasmissione in podcast con le mie previsioni per i playoff e per gli award stagionali, che ancora tra l'altro non sono stati assegnati, e quindi chissà se almeno uno di quei pronostici l'avrò azzeccato. Chissà se il prossimo anno torneremo con questo formato, se la redazione si amplierà, perché al momento siamo solamente io e il mio gatto che mi accompagna polemicamente nelle nottate fumose a visionare le partite più improbabili. Vedremo se NBA Week quindi continuerà ad esistere. Prometto comunque di aggiornare la nostra pagina Facebook anche in estate, quindi semmai seguitela, e può darsi anche che qualche contributo testuale possa uscire anche dal blog, seppur dopo le faticose cronache live delle 5 gare di finale, sento comunque di aver fatto assolutamente il mio dovere anche sul nostro blog medium.com/NBA Week. Ci saranno poi anche gli amici di Alla e Ghita, un blog sportivo con il quale avevamo iniziato a collaborare attraverso reciproche condivisioni, che nel frattempo ha lavorato per allargare la propria redazione e per uscire prossimamente con un nuovo sito. Chissà che NBA Week non possa diventare una collaborazione diretta anche con loro, espertissimi di questo splendido sport, nonché piacevolissimi incontri nelle notti valdarnesi, passate spesso a teorizzare su quanto, ad esempio, Cleveland potesse essere più o meno forte di Golden State. Staremo a vedere quindi. Per la stagione 2016-2017 NBA Week chiude qui. È stato veramente un piacere immenso poter condividere con chi di voi ha scelto di seguirci questa annata. Quindi un augurio di una splendida estate per tutti voi, un saluto e un ringraziamento gigantesco da Julian Carax e da NBA Week.